Job 24. Ben ritrovati a Job 24. Oggi spazio le aziende che assumono e in primo piano c'è un grande operatore dei servizi di ristorazione per chi viaggia. Forse avete capito che si tratta di Autogrill, che cerca diplomati o laureati da formare perché diventino manager dell'offerta. 50 per la precisione in questo periodo. Sentiamo Eloisia Levati, manager delle risorse umane di Autogrill Italia. Autogrill Italia ha avviato la ricerca di 50 allievi manager da inserire nei punti vendita della rete commerciale. Le persone prescelte verranno avviate ad un percorso di formazione teorico-pratico della durata di circa 6 mesi, finalizzato ad acquisire le competenze necessarie per ricoprire il ruolo di manager dell'offerta. Nell'organizzazione di Autogrill Italia, il manager dell'offerta è l'assistente di direzione del punto vendita, quindi opera come assistente del direttore del locale e lo supporta nella gestione del punto vendita nei suoi molteplici aspetti. Questo quindi mi fa pensare che un manager dell'offerta potrebbe anche poi diventare direttore. Sì, gli allievi manager costituiscono, il corso allievi manager costituisce il vivaio dei futuri direttori di punto vendita. Come sta avvenendo questo recruiting? Cioè, quali sono le caratteristiche, i requisiti che ricercate nei vostri candidati? Noi ci rivolgiamo a persone in possesso di diploma di scuola media superiore e o di laurea, preferibilmente con indirizzo turistico o alberghiero. Se la provenienza dal settore, dal mondo della ristorazione, possono costituire titolo preferenziale, la selezione che effettuiamo viene però condotta soprattutto in base alle attitudini e alle motivazioni delle persone. Noi desideriamo entrare in contatto con persone fortemente motivate ad acquisire una professionalità e a crescere all'interno del nostro gruppo, con predisposizione alla gestione del cliente e al lavoro in team, dotate di concretezza operativa e con una forte determinazione a lavorare per obiettivi. Dove andranno poi a lavorare questi allievi manager? Gli allievi manager vengono inseriti per il periodo di formazione in uno dei locali scuola della rete commerciale. I locali scuola sono dei punti vendita alto performanti, il cui personale è certificato alla formazione delle nuove risorse. Si tratta di punti vendita che sono distribuiti su tutto il territorio nazionale. I primi 6 mesi si fanno in questi punti vendita? Sì, alla fine di questi primi 6 mesi, a fronte di valutazione positiva, vengono destinati appunto a uno dei punti vendita pluriofferta Autogrill situati sul territorio e maturano, muovono i primi passi nel ruolo di manager dell'offerta. Questi primi 6 mesi sono retribuiti? Gli allievi manager vengono assunti a partire dal primo giorno di formazione, quindi i 6 mesi sono retribuiti. Quindi ci sono possibilità per i giovani di tutta Italia? Sì. Direi che la nostra ricerca è aperta a persone provenienti da tutta Italia che appunto partecipano e superano la selezione e quindi poi possono accedere al tirocinio formativo. Come fanno a farsi notare questi ragazzi? Mandano un curriculum attraverso il vostro sito? Quali sono gli strumenti che hanno a disposizione per candidarsi? La nostra campagna di selezione è permanente, quindi è aperta sempre, ci si può candidare in qualunque momento dell'anno collegandosi al sito Autogrill, quindi all'indirizzo www.autogrill.it, alla pagina Lavora con noi, alla sezione Posizioni aperte, Corso allievi. www.autogrill.it. Grazie Eloisia Levati, grazie a voi per l'ascolto, con Gio24 ci sentiamo domani. www.radio24.it per riascoltare. Un saluto da Roberta Pellegatta.